Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. 21esima puntata. «Ecco Khalil», disse Saifuddin, «di solito cade, cade di testa, ma ha la testa dura». Khalil saltò giù dal risciò, ancora in movimento, cadde a quattro zampe e si rimise in piedi, imbarazzato. Era un uomo piccolo, tozzo, con gambe muscolose e spalle larghe e una faccia indefinibilmente giovane. Srotolò rispettosamente il lunghi legato in vita e disse «Sì, signore?». La posizione deferente della testa dimostrava che teneva in grande considerazione il meccanico. «Questi sono i parenti di Ukil Babu», disse Saifuddin. «Te ne ho parlato. Sono venuti dall'India per riportarlo con loro. Devi fare tutto quello che puoi per convincere Ukil Babu a partire». Khalil rivolse loro una specie di sorriso. C'era un grande vuoto dove un tempo dovevano esserci stati gli incisivi. In seguito, May ricordò di essere stata subito conquistata da quel largo sorriso timido, semplice. Ma guardando la sua faccia, capì istintivamente che non celava un'ingenua credulità, bensì il suo esatto contrario, una qualità della mente. Con voce bassa e roca, scuotendo la testa, Khalil disse: «Non ci andrà, è inutile parlargli, non ci andrà». «Khalil», disse il meccanico con asprezza, «ricordi quel che ti ho detto? Devi fare qualcosa per persuaderlo e per il suo bene. Non è più sicuro qui». Khalil si strinse nelle spalle. «D'accordo», disse. «Provateci pure, ma vi avverto, è inutile, non verrà». L'invitò a seguirlo e fece loro strada nel cortile. La nonna ebbe difficoltà ad alzarsi in piedi e Tridib dovette aiutarla. Maya Devi la prese sotto braccio mentre attraversavano lentamente il cortile. Tutte e due avevano le lacrime agli occhi quando si fermarono davanti alla porta. «Finalmente scopriremo la casa alla rovescia», disse mia nonna. Khalil spalancò la porta e li fece entrare. La stanza era ampia e molto malconcia, non per trascuratezza, ma perché era troppo densamente abitata. Dalle pareti si staccavano pezzi di intonaco anneriti e dal soffitto pendevano infinite ragnatele. Il pavimento era ingombro di vecchi tubi di scappamento e manubri arrugginiti, mentre lungo le pareti erano allineati scaffali di libri laceri e raccolte di documenti a brandelli. Maya Devi e la nonna cominciarono a ridere, sorreggendosi a vicenda. «Niente è sottosopra», disse la nonna. Al riparo di una tenda, una donna avvolta in un sari, con due bambini aggrappati alle ginocchia, li stava osservando dall'altro capo della stanza. «Prepara del tè», le disse Khalil. «Svelta, sono i parenti di Ukil Babu venuti da Calcutta». La tenda si abbassò e la donna sparì, ma i bambini rimasero a guardarli con lucenti occhi rotondi. Soltanto quando Khalil attraversò la stanza, notarono il vecchio. Era seduto su un alto letto a baldacchino, guardava fuori dalla finestra, ignaro della loro presenza. Roby sobbalzò, non aveva mai visto una persona così vecchia. Era tanto vecchia che sembrava un bambino, rattrappito, minuscolo, con rivoli di saliva agli angoli della bocca. Gli occhi della nonna si velarono di lacrime quando lo vide. «Jetamoshai!» gridò. «Siamo tornati, finalmente!» Allora la vide e si volse lentamente a guardarla. Lei si coprì il capo e si precipitò verso di lui. «Siamo tornati, Getamoshai», disse, e la voce si perse in un singhiozzo. «Siamo venuti a prenderti!» «Ferma!» emise un grido stridulo e si rannicchiò tra i guanciali e i cuscini sparsi intorno a lui. «Ferma! Ferma! Ferma! Che cosa fai, donna? Fermati!» La nonna rabbrividì confusa. «Che cosa vuol dire fermati?» La voce incrinata dalle lacrime era sull'orlo dell'indignazione. «Non mi riconosci? Sono tua...» «So chi sei, donna!» disse lui irosamente, con la sua voce sottile e tremolante. «Ma non permetto che i clienti mi tocchino. Mio padre non l'ha mai permesso. Era solito dire che è una cattiva abitudine. Adesso vai a sederti su quello sgabello laggiù e spiegami il tuo caso.» La nonna, colta alla sprovvista, gli obbedì e si sedette. Il vecchio puntò su Khalil un dito che sembrava un ramoscello secco e indicò gli altri. «Di loro di aspettare in coda fuori», disse. «Li riceverò uno dopo l'altro. Non posso ricevere più di un cliente per volta.» «Stammi a sentire», urlò Khalil con tutta la sua voce. «Non sono clienti, Ukil Babu, sono i tuoi parenti.» Ma il vecchio non lo ascoltava. I suoi occhi erano fissi su Mei. La bocca floscia si era spalancata e la lingua spuntava fra i buchi dei denti. Dondolò festosamente la testa rivolgendosi a lei. In risposta lei gli sorrise. «È una straniera!» urlò Khalil, la voce così alta che Roby sentì con i piedi il pavimento che tremava. «È venuta da Calcutta con i tuoi familiari!» «Lo so!» disse il vecchio strizzandole l'occhio. «Lo so, io su tutto, Clara Bow, Mary Pickford, lo so. Ukil Babu sa tante cose», disse orgogliosamente Khalil alla nonna. «Come sta?» domandò il vecchio a Mei in inglese, con un sibilo della lingua fra i buchi dei denti. «Come sta?» Sembrò che un pensiero gli attraversasse la mente. Sollevò la testa e controllò le pareti, le pupille perse nel bianco degli occhi, come tuorli d'uovo bucati. Trovò quel che stava cercando e alzò piano piano un braccio sottile come un fiammifero. «Eccolo là», disse indicando un quadro, «il nostro re e imperatore. Dio salvi il nostro re!» Il quadro era così incrostato di polvere che Roby riusciva a malapena a intravedere in basso, vicino alla cornice, una barba appuntita e in alto una corona fluttuante su una nuvola di ragnatele. Il vecchio cominciò a cantare. «God save...» Ma a quel punto dimenticò l'aria e riuscì in qualche modo a trasformare le parole in un divertente motivetto. Mei rise e intonò anche lei. «God save...» «Così va bene», disse il vecchio, battendo sui cuscini in un applauso. Poi di colpo restò immobile, a bocca aperta, e la faccia si fece scura per la preoccupazione. «Khalil!» disse in un sibilo che lacerò l'aria della stanza. «Khalil! Presto, corri a comprare la carta igienica.» «Cosa?» disse Khalil. «Perché? E se volesse andare al gabinetto?» disse il vecchio. «Mio padre diceva sempre che la prima cosa da fare se uno straniero fa visita alla tua casa è comprare la carta igienica. Lui sapeva. Lui leggeva.» «Non ti preoccupare, Ukil Babu», urlò Khalil cercando di calmarlo. «C'è già stata stamattina.» «Come fai a saperlo?» sbottò il vecchio. «Te l'ho detto lei, non sai neppure parlare inglese.» Adesso la nonna era fuori di sé, non poteva trattenersi, non sopportava di starli ferma un minuto di più. Balzò in piedi e disse: «Getamoshai, sai chi sono?» Il viso di lui si contrasse in un cipiglio stizzito mentre si girava lentamente verso di lei. «Non ti ho detto di star seduta, donna?» esclamò. Obbediente, la nonna tornò a sedersi. Ma non lo vedi? Mormorò torcendosi le mani. Sono figlia di tuo fratello. D'accordo, donna, disse lui. Spiegami il tuo caso. Di che cosa si tratta? Allora Tridib fece un passo avanti. Adesso ascoltami, disse con voce decisa. Siamo i tuoi parenti. Siamo venuti per portarti con noi. Ti ricordi di tuo fratello che viveva nell'altra metà della casa? Il viso del vecchio si illuminò. Sono morti, disse con aria di trionfo. Avevano due figlie, una con una faccia da avvoltoio e un'altra velenosa come un cobra, ma molto bella e con un'aria da santarellina. Tridib scoppiò a ridere. Bene, adesso sono venute a metterti in salvo, disse. Tutte e due sono andate a battere cassa da qualche parte, proseguì il vecchio. E appena ho potuto, io sono uscito in strada e ho raccolto tutti quelli che ho trovato e li ho portati a vivere qui. Sto giusto aspettando che si facciano vive. Il vecchio sogghignò e Tridib arretrò davanti alla guasta malevolenza delle sue gengive nere e vuote. Sto aspettando che si facciano vive, continuò, per trascinarle davanti a tutti i tribunali del paese, fino al consiglio del viceré. Il possesso costituisce i 9/10 della legge, era solito dire mio cugino Bragen, e lui lo sapeva perché aveva portato davanti a tutti i tribunali del regno la famiglia di uno zio che gli aveva sottratto una manciata di terra sulla sponda del canale per aggiungerla alla propria. «È vero», disse Mayadevi a Tridib, «me lo ricordo, dovette vendere la sua terra per pagare gli avvocati». «Per una manciata di terra», disse con ammirazione il vecchio, fissando il soffitto, «nelle mie vene scorre quello stesso sangue. Salteranno fuori, lascia solo che si facciano vive». «Si sono fatte vive», disse la nonna affettuosamente, «ma non per lottare contro di te in un tribunale. Non vogliamo la casa. Siamo venute per portarti a casa con noi. Non sei al sicuro qui. Possono scoppiare dei disordini da un momento all'altro. Devi andartene finché sei in tempo». «Andarmene?» chiese il vecchio incredulo. «Andarmene dove?» «Non sei al sicuro qui», lo incalzò la nonna. «So che questa gente si prende cura di te, ma non è la stessa cosa, non puoi capire». «Capisco benissimo», disse il vecchio a bassa voce. «So tutto e capisco tutto. Quando cominci a muoverti, non ti fermi più. È ciò che dissi ai miei figli quando salirono sul treno. Io non ho fiducia in questa India Scindia. Va tutto bene, adesso ve ne andate, ma supponiamo che quando sarete arrivati laggiù loro decidano di tracciare un'altra linea da qualche parte. Che cosa farete allora? Dove andrete? Nessuno saprà dove siete. Quanto a me, sono nato qui e morirò qui». A quelle parole la nonna si arrese, sospirò e si alzò per andarsene. «È inutile cercare di convincerlo», disse. «Abbiamo fatto quel che potevamo. Adesso è meglio che ce ne andiamo». Allora il meccanico Saifuddin, che aveva ascoltato tutto con attenzione, attraversò velocemente la stanza e disse: È inutile parlare con lui. Non sa quello che dice. È come se fosse pazzo. Dovete trovare un altro modo per portarlo con voi. Di colpo, Khalil si girò verso la nonna con le braccia tese. Non dategli ascolto, gridò. Dice così solo perché vuole impadronirsi di tutta la casa e non può farlo finché c'è il vecchio. Non potete portarlo via, non vuole. E poi è come un nonno per i miei bambini. Che cosa faranno senza di lui? Il meccanico lo spinse con forza contro la parete. Mente, gridò. Non ha niente a che vedere con la casa. Vedete anche voi che Khalil è un ingenuo, non capisce niente. Vi dico di portarlo via per il suo bene. Si è fatto un sacco di nemici nel corso degli anni. L'ultima volta che ci sono stati dei disordini, abbiamo fatto fatica a proteggerlo. Chissà che cosa accadrà la prossima volta. Non potete portarlo via, urlò Khalil. Morirà! Allora si sentì una voce di donna. Era la moglie di Khalil, seminascosta dietro la tenda. Portatelo con voi, disse. Khalil non sa quello che dice. Non deve cucinare per lui e imboccarlo. Abbiamo altri due bambini. Per quanto tempo ancora potremo farcela? Dove troveremo i soldi? E mentre indugiavano lì seduti, paralizzati dall'indecisione, arrivò di corsa l'autista della macchina. «Per favore, signora, venite in fretta!» gridò. «Stanno per scoppiare dei disordini là fuori!» Girò sui tacchi e scomparve. La nonna prese una decisione. «Stammi a sentire, Khalil!» disse. «Faremo in questo modo. Adesso lo porteremo via e lo terremo con noi qualche giorno, fino a che saranno finiti i disordini. Poi, se vorrà tornare, lo riporteremo indietro. Che cosa ne dici?» La testa di Khalil era curva in segno di resa. «Va bene», disse cupamente, «ma non salirà sulla vostra auto. Lo porterò io con il mio risciò. Gli dirò che deve andare in tribunale, altrimenti non vorrà uscire di casa. Seguirò la vostra auto». Il meccanico rise sprezzante. «Come farai a seguire la loro auto?» disse. «L'hai vista? È una Mercedes». «Non preoccuparti», disse Khalil fissandolo con durezza. «Ce la farò se non corrono troppo». Poi si avvicinò al vecchio e gli disse qualcosa nell'orecchio. Il vecchio volse altrove la testa e agitò selvaggiamente le mani in aria, ma Khalil discusse con lui per un po' e alla fine quello acconsentì e tese le braccia verso di lui. Khalil prese una giacca di cotone appesa a un piolo e lo aiutò ad indossarla. Poi si sdraiò sotto il letto, tirò fuori un paio di scarpe, gliele infilò ai piedi e annodò le stringhe. «Bene, sono pronto per uscire», disse il vecchio. Khalil gli porse il bastone da passeggio, gli circondò le spalle con un braccio e lo aiutò a scendere dal letto. «Andate avanti», disse alla nonna, «salite in macchina». Lasciarono la stanza seguiti da Khalil e dal vecchio. Nel cortile Tridib aiutò Khalil a issarlo sul risciò. Il meccanico li accompagnò fino al cancello. «State facendo la cosa giusta», disse Amayadebi alla nonna, «l'unica cosa che potevate fare». Ignorandolo si girarono a dare un'ultima occhiata alla casa. I balconi e le terrazze digradanti, il giardino dove un tempo avevano trascorso le loro serate, inventandosi le storie sulla metà della casa che apparteneva allo zio. Uscirono dal cancello e si inoltrarono nel vicolo. I bambini erano rimasti ad aspettarli e li seguirono ridendo e chiacchierando fra di loro. La bimbetta che aveva fatto amicizia con May ricomparve e le prese la mano. Alcuni correvano a fianco del risciò parlando con Khalil e cercando di saltare sul manubrio. L'autista accanto all'auto agitava freneticamente le mani. Lui e la guardia armata spalancarono le portiere e li spinsero dentro. «Svelti adesso, signora», disse l'autista, mordendosi le labbra. «Svelti adesso». Roby si era aspettato di vedere una folla. Invece la strada era vuota, deserta, tutti i negozi chiusi. «Non ci sono disordini qui», disse l'autista. «Perché eravate così preoccupato?» «Aspetta un attimo», rispose l'autista asciugandosi la fronte con il dorso della mano. «Solo pochi minuti, padroncino Roby». Accese il motore e si mossero lentamente nella strada deserta, seguiti da presso da Risciò. Fu Roby il primo a vederli, subito dopo aver svoltato l'angolo che la nonna ricordava così bene, dove i ragazzi giocavano a football su uno spiazzo erboso. Decine di persone bloccavano la strada. Con qualche sedia rotta e pezzi di legno avevano acceso un rogo in mezzo alla strada. Alcuni erano accovacciati intorno al fuoco, altri in piedi appoggiati ai lampioni della luce e alle saracinesche dei negozi. Dal modo in cui controllavano la strada, Roby si rendeva conto che stavano aspettando la loro auto. In quel momento comprese, sentendo il gelo che si diffondeva dentro di lui dalla bocca dello stomaco, comprese che il disordine lo aveva infine raggiunto.